24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, ben trovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano l'allarme dell'FMI sulla crisi europea del debito, mentre la cancelliera tedesca Angela Merkel avverte: per uscire dalla crisi non ci sono soluzioni facili, e la BCE afferma: la crescita nell'eurozona resta debole. A Roma, incontro tra il premier Mario Monti e il presidente francese François Hollande. Per Monti questo è un momento cruciale. Infine, è sempre più scontro tra Europarlamento e Paesi membri su Schengen. Per la crisi europea del debito c'è bisogno che venga presa un'azione ad ampio raggio, è urgente. Ad affermarlo il direttore delle relazioni esterne del Fondo Monetario Internazionale, Jerry Rice. Né la Spagna né Cipro hanno chiesto assistenza finanziaria al Fondo Monetario, secondo Rice. La Germania è forte, ma non è senza limiti, la sua forza non è infinita. La cancelliera tedesca Angela Merkel interviene così al Bundestag nella relazione in vista del G20. La strada per uscire dalla crisi è difficile, comporta misure pesanti e dolorose, ma non si possono scegliere soluzioni facili, ha aggiunto la Merkel, secondo cui crescita e rigore sono due pilastri fondamentali e inevitabili del percorso contro la crisi. Dalla Merkel un appello agli altri partner internazionali: non solo l'Europa è responsabile del contrasto alla crisi, anche il G20 deve prendersi le proprie responsabilità. Infine un'apertura: la cancelliera si è detta favorevole a un più forte ruolo della BCE sul controllo delle banche. Proprio la BCE ha lanciato un nuovo allarme nel bollettino di giugno: la crescita economica dell'eurozona resta debole, soggetta a maggiori rischi al ribasso, in particolare un ulteriore acuirsi delle tensioni in diversi mercati finanziari. Per Francoforte il mercato del lavoro e le sue previsioni sono ulteriormente peggiorati. Il consiglio direttivo della Banca Centrale Europea terrà sotto attenta osservazione i futuri andamenti e assicurerà la stabilità dei prezzi a medio termine nell'area euro, intervenendo con fermezza e tempestività. Il calendario appena concordato garantirà che il meccanismo di stabilità europeo e il patto fiscale saranno varati in tempo, ha dichiarato Volker Kauder, capogruppo parlamentare della CDU, partito di Angela Merkel. Siamo sulla strada giusta affinché la Germania onori i suoi impegni in Europa, ha aggiunto Kauder. E c'è accordo politico tra governo e opposizione in Germania per la ratifica del Fiscal Compact e del meccanismo europeo di stabilità. Secondo fonti della coalizione, citate dall'agenzia DPA, il voto è previsto per il 29 di giugno. È un momento cruciale per il mondo e per l'Unione Europea. Così il premier Mario Monti al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con il presidente francese François Hollande. Sentiamo Elisabetta Fiorito. Le banche spagnole dovrebbero aver bisogno di capitali freschi per 60-70 miliardi. Questa la cifra calcolata stando alle indiscrezioni riportate dall'agenzia di stampa Reuters da una delle società di revisione indipendenti incaricate da Madrid di esaminare la situazione degli istituti di credito iberici. La Spagna sta reagendo alla crisi con determinazione, col sostegno dei partner europei, ma il processo per riguadagnare la fiducia dei mercati è graduale e richiede tempo. Così la Commissione europea, dopo la decisione dell'agenzia di rating Moody's di abbassare il rating iberico. E gli interessi pagati da Madrid sul prestito dell'Eurogruppo per ricapitalizzare le banche avranno un impatto sul deficit spagnolo, che sarà però compensato dagli interessi che la Spagna applicherà agli istituti che chiederanno finanziamenti. A riferirlo il portavoce del commissario europeo Olli Rehn, il prestito fino a 100 miliardi sarà concesso a tassi attorno al 3-4%, mentre alle banche sarà elargito a tassi superiori, a compensazione del rischio che le autorità spagnole si assumeranno. E siamo alle cruciali elezioni greche. Se il partito della sinistra, Syriza, vincerà domenica le elezioni, questo significherà la fine del memorandum con cui i creditori internazionali hanno concesso aiuti ad Atene. Ma il leader dello schieramento, Alexis Tsipras, è pronto a rinegoziare un nuovo accordo con Europa ed FMI. Ad affermarlo lo stesso Tsipras in un'intervista alla TV privata Antenna, sottolineando il fatto che saranno gli elettori e non Syriza a decidere se il memorandum dovrà essere cancellato. Intanto prosegue la fuga di capitali dal paese. Il servizio. Le paure per le sorti di Atene si fanno sempre più forti alla vigilia di un voto che potrebbe consegnare nuovamente un quadro politico frammentato. Scrive il Wall Street Journal, citando un banchiere, che quotidianamente i greci ritirano tra i 600 e i 900 milioni di euro dagli sportelli delle banche e che domani la cifra potrebbe salire ancora. Anche in Spagna si iniziano ad intravedere segnali di un deflusso di denaro dagli istituti di credito. È forse anche guardando a questi dati che Angela Merkel si è rivolta a Madrid. Chieda gli aiuti europei al più presto, prima lo fa, meglio è. La cancelliera tedesca in audizione al Bundestag in vista del G20 torna ad aprire ad un ruolo più forte della Banca Centrale Europea nel controllo delle istituzioni finanziarie, ma sembra anche voler rispondere alle molte sollecitazioni arrivate in queste ore perché Berlino svolga un ruolo centrale per la crescita economica europea. La Germania è forte, chiarisce, ma la sua forza non è infinita. E ancora, la crisi è complicata, difficile, una fatica di Ercole, ma non ci sono soluzioni facili. Qualsiasi scorciatoia porterebbe nuovi problemi, se non domani, nel lungo periodo. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per ora le autorità di Cipro non hanno sottoposto alcuna richiesta di aiuti all'Europa, a dichiararlo la Commissione europea. Secondo notizie di stampa, Cipro, il cui rating è stato abbassato mercoledì da Moody's, starebbe cercando finanziamenti per 4 miliardi di euro e starebbe negoziando anche con la Russia. Il Fondo Monetario Internazionale ha approvato il versamento di 1,4 miliardi di euro per l'Irlanda, settima tranche del prestito da 23,5 miliardi accordato al paese nel 2010. Il fondo si è congratulato per le riforme condotte da Dublino, con l'appoggio della popolazione, a fronte dei venti contrari provenienti dalle tensioni finanziarie nell'Eurozona. Intanto l'Europa resta osservata speciale degli Stati Uniti in un anno elettorale cruciale per l'attuale amministrazione a Washington. In servizio. Da Washington Barack Obama è preoccupato, continua a non trovare quel numero di telefono europeo col quale gli americani fin dai tempi di Kissinger speravano di poter risolvere i problemi transatlantici. Il presidente ha ripetuto di essere, non ottimista sulle possibilità che l'Europa proceda rapidamente verso una soluzione dei suoi guai e dunque insiste, preme, fonti dell'amministrazione dicono che dal G20 di lunedì, dove dovrebbero emergere delle soluzioni, forse non emergerà nulla di importante, del resto ce lo si aspettava, ci sarà il firewall, ma il problema resta europeo, la questione della fretta è una fretta che dovrebbe mostrare l'Europa e che invece non mostra. Per questo a Cabo San Lucas, al G20 messicano, si parlerà anche molto di politica, soprattutto di Siria e Iran, in un vertice delicatissimo fra Vladimir Putin e Barack Obama. Mario Pratero, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. L'inflazione nei 17 paesi dell'area euro si conferma in lieve calo a maggio, 2,4% rispetto al 2,6% registrato ad aprile, a renderlo noto Eurostat. Sempre per Eurostat, il costo orario del lavoro su base annua è aumentato del 2% nei 17 paesi dell'Eurozona nel primo trimestre 2012, era il 2,8% nel trimestre precedente. Per l'Italia l'aumento è stato dell'1,5% nel primo trimestre. Ora i mercati, Piazza Affari chiude sui massimi di giornata al termine di una seduta incerta in cui i principali listini hanno chiuso contrastati in attesa dell'esito delle elezioni in Grecia. Atene è stata l'indiscussa maglia rosa con un balzo superiore al 10%, mentre a Milano il FTSE MIB ha registrato un rialzo dell'1,47%. Voltiamo ora finalmente pagina, è sempre più ingarbugliata la situazione in Siria. Sentiamo Gigi Donelli. Gli Stati Uniti hanno le loro preoccupazioni, l'Europa ne ha altre. La pressione americana sull'intervento in Medio Oriente trova la resistenza dell'Europa, la complessità dell'intervento in territorio siriano, d'altra parte una gatta da pelare che fa paura a tutti. Nel frattempo, questa mattina, poco fa, il Senato ha approvato all'unanimità il DDL di conversione in legge del decreto che autorizza la partecipazione italiana alla missione militare di osservazione in Siria, secondo quanto stabilito dalla risoluzione 2043. Che cosa significa? Che siamo parte dunque di un pacchetto che proprio in queste ore, attraverso gli osservatori dell'ONU, ha visto l'ingresso dei caschi blu ad Afe. Insomma, di sicuro l'Europa entra con prudenza, in punta dei piedi, in un contesto di disgregazione, lacerazione e violenze che, secondo i dati aggiornati oggi, registrano 14.400 morti in 15 mesi di guerra civile, il che spiega anche una parte della prudenza non solo verbale dell'Europa. Ritorsione del Parlamento europeo sull'affare Schengen. L'Eurocamera sospende le trattative con il Consiglio europeo su 5 dossier in tema di affari interni e giustizia finché i governi non consentiranno nuovamente all'Assemblea di valutare i motivi di ripristino delle frontiere, ad annunciarlo il Presidente del Parlamento europeo Martin Schulz. Bisogna prendere in considerazione l'ipotesi che non si riesca a chiudere il negoziato sulla politica agricola comune entro i tempi stabiliti, che sono strettissimi. Lo ha affermato il Presidente della Commissione agricoltura dell'Europarlamento, Paolo De Castro. Era questa l'ultima notizia, è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.